Volevo buttare io un punto che è stato un po' forse appena toccato, cioè non è che magari questa mancata educazione voluta anche, come diceva giustamente, dagli alleati, non era anche all'interno del disegno di utilizzare in qualche modo ex fascisti eccetera in quello che poi sarà il panorama degli anni 60, la strategia della tensione eccetera, no? Perché si sa che molti ex fascisti simpatizzanti eccetera poi confluiscono in gruppi tipo Stay Behind, Gladio eccetera, no? Ci sono nomi di ex fascisti all'interno di servizi segreti poi, quindi sia italiani che alleati anche della CIA eccetera, no? È un fenomeno isolato, è stato un fenomeno invece più diffuso, ecco, se magari potesse dire qualcosa. Sì, volevo un dubbio, una domanda che mi sorge spontanea. Nel famoso processo ad Eichmann a Gerusalemme e nell'altrettanto famoso testo di Hannah Arendt, no? La banalità del male, si pone forse un punto che lei toccava insistentemente, secondo me, nell'ultima parte dell'intervento, cioè sostanzialmente cosa noi intendiamo per libertà di coscienza e immediatamente dopo cosa intendiamo per responsabilità giuridica. Io ho seguito con molto interesse soprattutto la prima parte, quella legata a Mandela e alle commissioni, diciamo, di pacificazione. Ho un dubbio di comprensione, forse non ho poco inteso bene quello che diceva, ma rapportando questo alle mie letture oramai vecchie, faccio un po' fatica a collegare le due cose, cioè nel senso che da un lato si tende a dimostrare che i regimi totalitari negano in qualche modo o azzerano la libertà di coscienza, d'altro lato però sarebbe necessario, e trovo anche una sua giustificazione questo, ripensare il passato alla luce del presente e quindi cercare una soluzione condivisa che ricostruisca il tessuto sociale. Ecco, faccio fatica a tenere assieme i due termini della questione, e la ringrazio. E intanto rispondo, io non sono sicuro, se vuole dire inverso, rispondo subito all'ultima. Non sono sicuro io a questo punto di aver capito, forse la domanda che le fa sono due, cioè da una parte la libertà di coscienza l'esistenza, cioè l'esistenza della libertà di coscienza in un regime totalitario, autoritario, totalitario criminale, esiste o no? E se esiste la base della possibilità a quel punto di applicare il criterio di responsabilità, di colpevolezza, di responsabilità e quindi di imputare di una colpa il singolo individuo. Se non esiste la libertà di coscienza, esiste la libertà di scelta e quindi le premesse della persecuzione penale, se io ho capito, vengono a cadere. È una domanda giusta a cui io non so rispondere, perché a parte i grandi problemi storici, quanta libertà di coscienza esprimibile esiste in un sistema totalitario, perché non parliamo del foro interiore, di quello che uno pensa nell'individuo, come può manifestarla evidentemente, che si lega al problema del famoso consenso al fascismo, se non puoi esprimere dissenso, ciò che non è dissenso può essere letto come consenso. E lei si potrebbe divertire a leggere libri di storici che arrivano a conclusioni opposte su questo nome, al fascismo, al totalitarismo e così via. Ma dal punto di vista penale, la soluzione, che poi è l'ultima pagina del libro di Hannah Arendt, se non ricordo male, è che l'Arendt, per esempio, nega con forza che colui che è inserito in un meccanismo a quel livello, soprattutto perché Eichmann dopo Liber Arendt c'è la bellissima biografia di uno storico inglese di David Cesarani, era ben convinto di quello che faceva e non era come si presentò al processo e neppure come Hannah Arendt in qualche modo lo raffigurò, che nella sua raffigurazione non coincide con l'autopresentazione, però in qualche modo banalità del male è un termine. Ma nel termine della, nel titolare, il punto fondamentale da sottolineare qual è? Male o banalità? Cioè in genere si mette l'enfasi su banalità, la banalità del personaggio. Il personaggio è banale, ma forse che il personaggio è banale è che il male è assoluto. E un personaggio banale non è detto che ignori ciò che fa. Allora il livello della libertà di coscienza è un livello diverso, chiaramente non si può porre sul piano, su questo piano in cui si pone nelle società aperte e libere, ma si pone sul piano del coinvolgimento consapevole nel meccanismo. E uno che trattava la liberazione o la persecuzione di 20.000 ebrei in Ungheria, non c'è dubbio che... Ecco, certo, tutto questo che lei dice è giusto e conferma la necessità di riflettere sulla possibilità di perseguire con la categoria di responsabilità individuale crimini che sono frutto necessariamente del convincimento di decine di altre persone. Allora è giustizia quella che si ferma ad Eichmann o a coloro che sono perseguiti a Norimberga e non arriva a Sino? E come arrivare a Sino a tutti i punti? Sicuramente è un tema che sta nei termini in cui lo dice, ma a cui io non posso rispondere se non con questa formula, che non vuol dire evitare la domanda, ma rispettare anche i limiti delle mie interferenze. Sulla mancata curazione, la mancata curazione aveva come intento quello di sicuramente arrivare a una soluzione del clima di contrapposizione frontale del 46-47, cioè è un quadro in cui ancora continua una guerra civile latente. L'intenzione dell'amnistia è di bloccare l'operazione e anche quello dal punto di vista del il nobile intento dei governatori antifascisti, dei governanti antifascisti, sicuramente da parte dello Stato venne utilizzata per assicurare una continuità oltre che di apparati e di norme anche di uomini. C'è poi un disegno nascosto che non è tanto un disegno credo italiano, anzi, ma è un disegno degli alleati e soprattutto delle strutture sotterranee del nuovo sistema internazionale, cioè nasce in quegli stessi anni quella forma di utilizzazione nascosta dei neofascisti, dei neonazisti, ma stiamo parlando di persone che avevano alte competenze militari, perché da Lino Valerio Borghese, che era un militare di straordinaria capacità, che come è noto entrò in contatto sin da allora con quelle che sono le strutture del doppio Stato, quello che Franz Neumann ha chiamato il doppio Stato, cioè uno Stato sotterraneo in tutte le istituzioni dello Stato, in particolare più sotterraneo di tutto, che non sono soltanto i servizi segreti, ma ciò che è più segreto dei servizi segreti. Nel clima del dopoguerra, della contrapposizione fra blocchi, non c'è dubbio, questo vale anche per gli ex nazisti, per i militari nazisti, quindi via, che una serie di competenze militari straordinarie, che quelle tedesche erano veramente straordinarie, potevano far parte di altrettanta significatezza c'era nell'Unione Sovietica e nella DDR, cioè la politica non conosce moralismi da questo punto di vista. Memoria condivisa auspicabile o possibile? Non so, possibile sicuramente, auspicabile non so, ma non come trasposizione volgare delle opposizioni ideologiche di un tempo della storiografia, perché questo veramente sarebbe indegno. Quanto legittima rivendicazione da parte di tutti ad avere una propria visione del passato e del proprio dolore, e di un dolore che però è capace anche di diventare elaborazione di una prospettiva prospettiva per il futuro. Questo sì, c'è un mio collega che si chiama Leonardo Paggi che ha scritto un libro intitolato Il popolo dei morti. Secondo lui, se smettessimo la memoria antifascista, o la memoria che un tempo si sarebbe detta nostalgica, e ci ricostituissimo come nazione italiana il numero dei morti, cioè tutti coloro che hanno sofferto in questa tragedia, forse potremmo, non lo so, è possibile. Leonardo Paggi poi ha vissuto personalmente questa tragedia, pezzo in pace, ognuno di noi però ha vissuto personalmente questa tragedia. Io se ripenso anche alle mie, ai miei dolori personali o dei miei parenti, vorrei che fosse rispettata anche la necessità di una distinzione. Quindi la memoria condivisa, direi una presente condiviso attraverso valori difficili oggi da svuotare di retorica, e al tempo stesso rispetto per le memorie di tutti e le distinzioni individuali, collettive. Guardate che non c'è necessità di tutto questo, perché guardate, gli Stati Uniti hanno una memoria, nessuno ci pensa mai, laceratissima. Andate negli Stati del Sud e vedete che ancora c'è un ricordo di una guerra civile di oltre un secolo fa che è ancora lacerante, tanto che in quel caso tutte le volte in cui il governo federale cerca di imporre alcune soluzioni si parla di nuovo di secessione, quindi non è più che tanto. Problemi di memoria divisa esistono ovunque, in Francia per esempio, dalla rivoluzione francese in poi è una successione di memorie divise, non è questo il punto, è il presente che deve essere condiviso, e soprattutto il lavoro sulla memoria può servire a condividere i valori del presente, questo sì. C'era un... Io vorrei però che qualcuno, qualche ragazzo, sì, perché forse ho esagerato in qualche parte, ho detto troppe cose, non si è capito, ecco, vorrei anche domande semplici, non ho capito questo, dimmi le tre parole, parla come mangi, insomma. L'Italia di adesso, il fatto che noi non abbiamo fatto con chiarezza i conti del passato, che erano fatti i tedeschi, appunto, come ci ha spiegato, a partire dalla metà degli anni 80 in poi, per cui i tedeschi di adesso, su certi valori di adesso, possono dire di condividere, mentre da noi ancora c'è, si parla sempre di guerra civile a bassa intensità. Ma non so se condividono i tedeschi, perché poi in realtà l'unificazione est-ovest ha complicato di nuovo le cose. Non è così semplice, perché c'è un problema per esempio di giustizia di transizione anche per quanto riguarda i crimini della Stasi, la polizia politica. E lì come giudicare quel meccanismo? Avete mai visto questo film che si intitola Le vite degli altri? La Stasi arrivava. Però per spiare chiunque avesse una manifestazione minima di senso, il romanziere, l'attrice di teatro, ma non è che coinvolgesse soltanto gente speciale, mezza Berlino quasi era spiata grazie al vicino di casa. In Polonia poi sono continuati i massacri degli ebrei dopo la seconda guerra mondiale, grazie ai vicini di casa. Quindi denunciano i genitori. È complicato, non si può chiedere allo studio della storia soluzioni che sono che appartengono al concorso di tutti e soprattutto all'umanesimo che va ricostruito attraverso una riflessione sui valori dell'uomo oggi, un nuovo umanesimo a mio avviso che va ricostruito. Certo, pesato. E si è visto negli anni 90, loro sono giovanissimi, ma negli anni 90 è stato un dibattito, lo scontro durissimo e un riaffiorare di memorie contrapposte. Ma perché? Perché è crollato il sistema politico nato con la Repubblica, il sistema dei partiti politici con la Repubblica. In un quadro di questo tipo la formazione di nuovi soggetti politici, politici e la ridiscussione di passato al passato è stata vissuta come un nodo unico, un intreccio unico. Beh, non è uno scandalo, è già accaduto, anche tra risorgimento e antirisorgimento ci sono state battaglie durissime negli anni 70, 80 e 800. C'era una parte dell'Italia che non si riconosceva nella nuova Italia e la memoria neoborbonica non è scarsa, ricordo che è riaffiorata poi anche in anni recenti, quando lo scontro su resistenza e fascismo, o a fascismo e antifascismo, o antifascismo e antifascismo, è riaffiorato. Non è questo il punto. Io credo che però oggi siamo in un clima diverso. Io non credo che quelli che hanno 17, 18 anni, 19 anni percepiscono l'importanza di tutto questo, spero, però come con un occhio veramente che può essere oggi lucido, distaccato, non equanime, perché nessuno può essere equanime, ma consapevole della propria soggettività e parzialità. La storiografia serve a questo, accettare fatti veri per poi consentire a tutti di essere consapevoli della propria soggettività e parzialità, non per arrivare all'imparzialità. La memoria condivisa come imparzialità è un fine irraggiungibile, però ognuno può essere consapevole della propria parzialità e anche della parzialità della propria memoria. In questo c'è un ideale scientifico, guardate, non è ridurre la storia a narrazione o a soggettività, no, l'ideale scientifico, cioè finché siamo ancorati ai fatti c'è un livello di verità verificabile. Poi esistono problemi di discussione sulle interpretazioni dei fatti, non sui fatti e neppure nell'interpretazione stessa, ma sull'interpretazione dei fatti che ognuno di noi ha, che può essere oggetto di un confronto. Ecco, questo secondo me oggi avviene per loro in un modo completamente diverso, non dovrebbero dire loro, perché cioè, non posso parlare. Lo vedono gli studenti, insomma, che poi hanno un anno più di loro, un tempo di sei, oggi si accostano con interesse, passione, ma non con la soggettività che ha avuto, con la carica soggettiva, la tensione soggettiva che ha avuto per altre generazioni, inevitabilmente. Perdi tutta la carica emozionale del ricordo, delle mettere salvo, basta. Secondo voi è sbagliato Mandela o no? A trovare questo. Ecco, questo invece, perché Mandela credo che sia un personaggio almeno questo noto. Tutti, insomma, non per niente, non avevo YouTube, Nobel per la pace, credo, per questo. Per una soluzione geniale, moralmente appetito, che c'è anche la soluzione. Uno che l'ha fatto rapinatore su una casa e gli ha rotto le spalle a uno perché lo va a salire, eccetera, dopo anni, perché è sempre pronto, ma per quando devo farlo incontrare. Buongiorno, io non ho capito un concetto che ha espresso all'inizio, quindi sarò anche molto confuso nel porre la domanda. Lei ha parlato di un trauma che, con le quali le nazioni hanno avuto a che fare dopo la fine della guerra, e questo trauma nasceva dall'autocoscienza, dal rendersi conto di ciò che avevano fatto per sostenere, per portare avanti la guerra, o almeno così mi è sembrato di capire, e aveva fatto una distinzione fra, diciamo, l'autocoscienza della Germania e quella dell'Italia. Ecco, io tutto questo passaggio non l'ho capito, non sono riuscito. Hai capito bene? È una cosa che vale soprattutto per gli anni 60, 70, 80. Cioè in Italia noi abbiamo tutta la resistenza, in Germania no. Armata, le formazioni partigiane, questo è Veneto, importantissimo. In Germania no. Un merito fondante anche delle nuove istituzioni, però è stata usata anche come un'autoassoluzione. Cioè i resistenti sono l'uso della resistenza, l'uso pubblico della resistenza, non so come spiego, nella retorica ufficiale, serviva e servito a non scavare fino a un fondo sulle responsabilità dell'Italia nella storia precedente. Mentre in Germania questo velo non c'era, perché non c'è stata l'identità, qualche tedesco si occupa, però il dopoguerra, infatti i trattati di pace, per esempio, quello applicato alla Germania è l'ultimo, quello applicato all'Italia, un po' perché l'Italia dal 43 al 45 è passata dall'altra parte, ha fatto la resistenza, sono diversi, e sono stati diversi anche nell'applicazione del diritto internazionale. Quindi, al di là dei processi, c'è stata una memoria pubblica fino agli anni 80 in Italia, per cui l'Italia è il paese della resistenza. E però è stato anche il paese del fascismo, della guerra di aggressione, della persecuzione degli oppositori, degli americani, che per scelte del sistema italiano. C'erano anche gli oppositori. Allora, devi sempre mantenere questa complessità. Per fare veramente un lavoro di costruzione di coscienza sulla base dell'esperienza storica anche della resistenza, lo devi dire anche l'altra parte. In Germania non l'hanno potuto fare, e quando hanno scoperto, riscoperto la storia dell'autoassoluzione nel 50-60, che i processi vengono celebrati poi piano piano hanno smesso di celebrarli, c'è stato un dibattito molto serio che ha ricostruito queste loro ambiguità e ha consentito una presa di coscienza molto più seria in Italia. In Italia negli anni 90 questo ha permesso, il fatto che la resistenza avesse fatto bene al passato, a una parte del passato fascista, di conseguenza della guerra, ha fatto sì che poi negli anni 90 il paese si lascerasse di nuovo i partiti politici più legati all'identità della resistenza, oppure si sono trasformati, comunque i politici, partiti politici che hanno gestito i governi dell'unità repubblicana. Tutto questo ha fatto sì che una parte della memoria degli oppositori, gli imprenditori, alla democrazia repubblicana ritornasse con una parte di verità storica, cioè la memoria neofascista si riproponesse come un aspetto di una verità storica. No, perché non c'è stata questa verità, c'è un passaggio perché non è semplice, tutta la storia del processo non è semplice. Questo è in particolare. Era complicato, questo è un senso. No, allora, fatto bene la domanda, l'ho risposto bene. Sì. Per me ci sono due cose che non ho capito bene guardando anche il progetto, forse anche perché riguardano cose di storia che non abbiamo ancora affrontato in classe. Questo io non lo sapevo. Però lei ha detto a un certo punto che gli alleati hanno deciso di scaricare la responsabilità del processo alle autorità italiane e decidere di non effettuare avanti il processo. Io ho capito che il motivo di questa scelta era anche che non volevano favorire l'avanzamento della parte radicale politica radicale, ma quindi questo cosa vuol dire? Cioè, vuol dire che in realtà l'alleato sovietico avrebbe preferito che si facesse il maxi processo e quindi ha vinto l'alleato dell'intesa in America, oppure che tutti gli alleati preferivano scaricare la data bollente, così alle autorità italiane. Divertente questa domanda, cioè forse l'aspetto fattuale è semplice. I sovietici non volevano nessun, ma non volevano nemmeno Norimberga, non avevano avuto nemmeno il processo di Norimberga, ma il giudizio diretto dei responsabili massimi subito. Anche Churchill non lo voleva personalmente. Churchill diceva fuciliamoli tutti subito e via, quello degli americani che sempre fatto in India, in Irlanda, dappertutto, che vuole il processo internazionale con questi visioni di vita. Quindi nel caso italiano la risposta te la dà in questo modo, cioè i sovietici non è che avrebbero voluto il max processo e se ci fosse stata una soluzione della questione italiana, cioè se in poche parole l'Italia fosse appartenuto al campo dell'egemonia sovietica, avessero vinto le sinistre, che non significa che queste due cose sarebbero più uccise, anzi, la storia controfattuale è molto divertente, ma ci porta lontano. No, dal punto di vista dei fatti, sicuramente non sarebbe possibilmente, probabilmente non sarebbe cambiato nulla. Sarebbero state possibili forse delle soluzioni di giustizia radicale, spiccia. Questo sì, perché per esempio ci furono esempi di giustizia di fucilazione immediata dei responsabili nei paesi balcanici, però ci sono anche molti processi. I sovietici preferivano che fossero le autorità nazionali, quindi i processi ci furono in Cecoslovacchia, in Ungheria, in Polonia, così, non un processo nell'area paragonabile a quello di Norimberga. Partecipavano a quello di Norimberga, però il caso dell'Unione Sovietica è un caso particolarmente dolente. Cioè, non ho tempo ovviamente per dire tutto, non si può dire tutto, ma Norimberga è difettosa anche perché c'è una commistione tra autorità politica e autorità giudiziaria, cioè i capi di imputazione furono decisi dai governi e trasmessi ai giudici con il concorso, cioè, quindi questo è un attentato alla divisione del potere, cioè il potere politico delle potenze vincitrici decide quale può essere la base su cui imputare i capi nemici che devono essere processati. Primo punto. Secondo punto è che le potenze che sono giudicanti avrebbero potuto essere giudicate. L'Unione Sovietica è responsabile di un crimine contro l'umanità, come l'eccidio di decine di migliaia di ufficiali e soldati dell'esercito polacco, avvenuto dopo il 1939, con la convergente attacco dell'Unione Sovietica e il Terzo Reich di Germania nazista sulla Polonia. Quando Hitler invade la Polonia, c'è un'occupazione dei territori orientali della Polonia da parte dei sovietici. E questo fa parte di un accordo diplomatico che Stalin aveva voluto e cercato con Hitler per probabilmente procrastinare forse l'attacco alla Unione Sovietica, ma sta di fatto che questo accordo comporta la spartizione della Polonia. E a Katyn vengono uccisi questi ufficiali polacchi, prigionieri dei sovietici, perché possono rappresentare il nucleo di una resistenza antirussa. C'è anche un bellissimo film di Wagner su Katyn, molto bello anche dal punto di vista, perché poi sono uccisi tutti con il colpo alla pistola e per decine di migliaia. Allora, tu sei potenza giudicante, ma al tempo stesso potenza responsabile. Questo è un punto fondamentale. Vale anche per gli Stati Uniti. Come giudicare lo schiacciamento delle bombe americane, americane su Hiroshima e Nagasaki in funzione dell'abbreviazione dei tempi della guerra? La bomba. Quindi aveva ragione Mandela. È possibile, certo è che, oddio, nel caso sudafricano è possibile che qualche resistente abbia commesso dei crimini, ma insomma, nel caso di Norimberga, parliamo di macrocriminalità, la decisione di sganciare le bombe o l'eliminazione di tutti i prigionieri polacchi sono quindi tali dimensioni che implicano decisioni ed esecuzioni coinvolgenti di persone che inficiano l'autonomia del giudicato. Allora, Norimberga avrebbe potuto essere composto la giuria dei paesi terzi, cioè né le potenze vincitrici né le potenze vinte, senza nulla togliere la deferatezza dei crimini nazisti, e almeno inserire questo. Vediamo se i sovietici avrebbero potuto ammettere che l'episodio di Katyn venisse incluso in una discussione, o gli americani. Aggiungo una complicazione: gli americani ancora non riconoscono il governo degli Stati Uniti sociali. Un errore grave che non sto a dire americano al posto delle istituzioni, i governi degli Stati Uniti non riconoscono, non hanno voluto riconoscere il Tribunale Penale Internazionale. coloro che hanno iniziato il diritto internazionale, perché sono loro che hanno voluto l'Olimpia, si trovano nella paradossale situazione oggi di non volersi sottoporre alle regole di codici e di questo tipo. Ma tutti che guardano, sono tutti quelli che ci vengono, dai, ma loro non lo so, scatenano. Sì, vai. Allora, prima lei aveva detto non è che sono per attuare un crimine come della portata del come la Shoah, quindi del genocidio degli ebrei, serve un ampio e complesso apparato di supporto. Io volevo chiedere se secondo lei le persone di questo apparato che stanno alla base, quindi come per esempio il conducente di un treno per la conduzione di, diciamo, di ebrei nel campo di concentramento e il politico al vertice abbiano o no la stessa responsabilità. Certo, magari non sul campo pratico, in quanto il conducente guidava solamente un treno, però sul campo, potremmo dire, ideale, insomma. Morale. Ecco. Morale. Morale, morale. Sì, sì, sì. Potete anche domandare. Lui scappa la domanda. Ok, rispetto all'ultima cosa che ha detto del triangolo con giustizia, verità e pace. Triangolo, giustizia, verità e pace. Se secondo lei, come o se sarebbe possibile davvero unificare i dati, cioè usarli nello stesso momento. Perché mi è venuto in mente spesso un esempio che ci fanno sul lavoro, del fatto della sicurezza del posto di lavoro, dei soldi, della soddisfazione, che è sempre possibile averne due e terza no, qualsiasi che accoppiata si faccia. E quindi mi è venuto in mente questo esempio perché mi sembra impossibile che in una situazione in cui ci siano giustizia e verità ci sia anche la situazione di pace. Per esempio, se vogliamo parlare appunto di questo processo di Norimberga, e con giustizia e verità di sicuro la parte perdente non sarebbe mai stata, diciamo, soddisfatta o contenta. Quindi se è possibile il campo pratico, non solo teorico, avrei l'esperienza. Grazie. Io lo sapevo che le domande più difficili avvengono all'ultimo, quando uno è stanco. No, ma non che sono stanco soggettivamente, che sono domande vere che non so rispondere, insomma. Cioè, perché alcune le vostre esulano anche dal campo dell'accertamento dei fatti e della storiografia, giustamente, non è che queste sono illegittime. Ma io come rispondo? Rispondo con le armi del mestiere o con le armi della mia convinzione personale? Io rispondo, non è che mi sottrango. Però sappiate voi distinguere che ci può essere un elemento di soggettività. Allora, responsabilità ideale, morale, così via, del ferroviere o di... ovviamente sul piano anche l'ideale morale non sono le stesse, ovviamente, cioè coloro che stanno a Berlino nel gennaio del 42 alla conferenza sul lago di Manzese, Berlino è una bellissima città con tanti laghi, ovviamente voi ci andate per altri motivi che sono i laghi, perché è una delle città più divertenti per un ragazzo oggi, però se andate a Manzese, un bellissimo lago, lì c'è stata la conferenza in cui si sarebbe deciso lo sterminio degli ebrei. Ed erano i 15-20 capi dell'SS e così. Poi per disterminarli ci vuole prenderli, concentrarli, deportarli e poi sterminarli. Nello sterminio furono coinvolti una parte degli ebrei stessi dei campi. Primo Levi scrive delle pagine dolorosissime da questo punto di vista. Cioè giudicare sul piano ideale e morale è legittimo, però ti devi sempre chiedere, ma io cosa avrei fatto al posto del ferroviere? Con la pistola alla tempia, magari dell'SS che è sul treno e così via. Vale per addirittura i capi dei consigli ebraici che trattavano con le autorità di lì, inevitabilmente dovevano trattare. Cioè esistono zone di... in cui i nostri comportamenti sono compresi, che è difficilissimo anche ricostruire nella soggettività, nell'oggettività. Io non mi permetto di giudicare su quel terreno, mi permetto soltanto di chiedermi cosa avrei fatto io. Mi sarei fatto sparare, avrei guidato il treno, non lo so. Dobbiamo trovarci in quelle condizioni e è possibile che in alcuni casi ce l'avrei fatta e in altri non so. Ma certo, una parte di responsabilità c'è comunque, qualunque scelta tu faccia. E quindi, scalando debitamente, credo che si debba considerare anche questa dimensione del condotto. C'è un bel libro di Raoul Hilberg, Lo sterminio degli ebrei d'Europa, in cui ricostruisce anche questa, gli orari dei treni, eccetera, eccetera, e anche il coinvolgimento di fasce ampie della popolazione. Dunque, te mi hai chiesto... Il triangolo. Il triangolo. No, il triangolo. Se si può fare il triangolo perfetto. Cioè, domanda triplo senso almeno, triangolo perfetto. Cioè, no, triangolo perfetto non si può fare, secondo me. Cioè, libertà, egalità, fraternità non sono stati insieme, e poi 1848 fu la rivolta della fraternità contro una libertà che aveva sacrificato l'egalità. Non è un gioco di parole, ma la libertà era diventata la libertà di mercato, e il 48 è anche la prima rivolta operaia, perché non c'è fratellanza. Cos'è sta repubblica in cui gli operai stanno in un certo modo, i seigneur, le croque, diciamo, i francesi grossi, ricchi? Giustizia, verità e pace già bisogna definirli e ridefinirli in continuazione. Si possono mettere in gioco tutte le volte, trovando una combinazione, e sapendo che se un lato del triangolo è più corto, si è consapevoli che si sceglie di privilegiare gli altri due. Ma bisogna essere onesti, soprattutto nella ricostruzione della lunga triangolazione nel passato. Cioè, Machiavelli, per esempio, abbiamo attraversato il cinquecentenario del Principe, libro straordinario, ma lui scrive nel Principe che il modo migliore per fare giustizia nella transizione dalla Repubblica alla tirannide, dalla tirannide alla... è fare tagliare la testa a tutti quelli che non sono d'accordo con il nuovo regime, possono lavorare per il ritorno del vecchio. Allora Machiavelli superava il triangolo? No, perché Machiavelli è anche l'autore probabile del progetto di riforma della giustizia della Repubblica Fiorentina, di cui è stato segretario diplomatico qualche anno prima, in cui, prima della chiusura dell'esperienza repubblicana, in cui sostiene la necessità di riformare il sistema di giustizia dei medici, perché appunto i grandi riuscivano a evitare inchieste sulle malversazioni, sulle deformazioni dei medici. Quindi, ancora una volta, Machiavelli, anche lui, sa che nella realtà effettuale, un'espressione che lui amava, si deve procedere in questo modo, cioè essendo consapevoli che in quel momento si persegue un fine, ma che la giustizia non è di questo mondo, ecco, per parafrasare ancora. Scusami, ecco. Suona un po' come la classica furbata italiana, dove gli italiani fanno imitare del, un po' del buono, del bravo italiano, alla fine c'è se smacchiarsi la coscienza e a mostrare la liscia. Volevo fare due domande. La prima è che come tu reagisci, come l'opinione pubblica ha reagito all'inesistenza di un maxi processo, perché effettivamente forse non si sapeva dei crimini degli italiani, si sapeva cosa si è fatto, come ha reagito. Che ti riferisci, scusa, maxi processo italiano? Si è autocontrattato con gli altri. E una seconda domanda, che forse è un po' forzata, è che non è che diciamo, questa riuscita turbata sia diventata un po' un vizio, perché sentendo meno probabilmente un episodio avvenuto nel 2001 con la Diaz. Guarda. Vedo che lo riattualizza. Non l'avevo detto tu, telegraficamente, nel frattempo comincia a scarseggiare. L'insabbiamento del maxi processo britannico è una mia scoperta. Cioè, quel libro lì della società cioè, perché noi studiavamo le stragi. Andiamo a guardare gli archivi e vediamo che i documenti sulle stragi sono inglesi. E spesso troviamo in una strage in Veneto, in Toscana, gli stessi timbri, gli stessi codici, e soprattutto il riferimento a documenti e l'inserimento, anche documenti che sono appartengono a un unico paese. Non è possibile che gli inquirenti inglesi, in realtà esisteva un'unica documentazione per fare un unico processo, poi l'hanno spezzettata e hanno istruito tanti processi, che poi non sono stati celebrati. da celebrare, perché noi abbiamo contrattato con i governi italiani questo. Non chiediamo la punizione dei comandanti tedeschi, probabilmente responsabili di questo attento, e contemporaneamente non diamo i nostri responsabili. Allora, c'è un gioco che si costruisce nel tempo, più che un insediamento deciso. Però quei faldoni sono stati messi in quell'armadio e poi l'armadio è stato girato. C'è stato un procuratore militare che l'ha scoperto, quindi primo punto. E comunque, infatti, ho detto italianissima soluzione, cioè perché c'è un qualcosa di quasi da Arlecchino che vuole girare l'armadio, no? Cioè la trattativa diplomatica è una cosa seria, perché si tratta di riavviare le relazioni tra Germania e Italia nel dopoguerra. Mettere i fogli nella cassa parte, voglio dire, è molto chiaro. Purtroppo. I processi che sono stati fatti in giro di decenni, so che hanno arrivato cittadini di SS 90 anni, che sono qui, perché non sono descritti. Guarda, quelli che mi a caso Diaz è un caso sicuramente, cioè non vorrei ora, naturalmente ci sono scale di crisi, però dal punto di vista del comportamento della politica, per quel che io conosco di quella vicenda, ci sono state coperture a più alti livelli di comportamenti criminosi, e non solo criminosi, ma anche di falsificazione di prove, di attribuzione di responsabilità a coloro che stavano dentro, che sono esplosi lavorosamente, e ci sono state poi dichiarazioni documentate di alcuni altri ufficiali che hanno rivendicato questo comportamento e che rappresentano uno di quegli episodi di resistenza, spesso di culture, di repressione che l'autorità politica, l'autorità federale non riesce veramente a controllare. Scusa. Vista la presenza della partigianeria in Italia e la mancanza in Germania. Partigianeria, l'atteggiamento partigiano. Ecco sì. Dunque, mi viene da pensare che effettivamente ci sia stata una carenza da parte di Mussolini nel controllo delle folle. Cosa, cioè, voglio dire, mi riferisco soprattutto agli scritti di Gustavo Bona, cioè se la rimondo, cioè, un po', che sia Mussolini che non sia adesso. Cioè, voglio dire, effettivamente, secondo lei, quali possono essere state le differenze tra il controllo delle masse e i due rispettivi regimi? Forse, 3 minuti. Mussolini ha insegnato a Hitler, non c'è dubbio. Hitler era ben disposto, come dimostrano le fotografie e tutte le scoperte delle forme che faceva allo specchio. Ci sono nel Mein Kampf, che ti consiglio di non leggere, ma come documento, di guardare il documento storico, delle confessioni di Hitler straordinarie sul modo di trattare la folla, che sono le convinzioni di uno stupratore impotente, cioè della folla femmina, che va aggredita, sbattuta e così via. Poi sappiamo che la dimensione psichica di Hitler da questo punto di vista non era semplice. Ci sono delle inchieste sul possibile crimine sessuale del giovane Hitler che alcuni magistrati hanno scoperto. Comunque è un nome cruciale, però non ti posso rispondere se non del fatto che erano dei maestri tutti e due nel manipolare la fede della vita. Spieghiamoci, perché molti se ne vanno. Ne avevo uno. Servizi sociali, ma mi sembra colpito molto la questione dell'amnistia. Volevo chiedere, alza la voce, sì. Volevo chiedere cosa consente al singolo e alla comunità la possibilità di metabolizzare il conflitto, nel senso come superare la linea di demarcazione dal tuo punto di vista, ovviamente, tra colpa degli altri o di nessuno a colpa di tutti. Spiegami meglio. Spiegami. Nel senso che è facile. Cioè, la domanda è chiara, ma il rapporto all'amnistia. Nel senso che è facile dopo un conflitto, o anche durante il conflitto, vedere nell'altro il nemico. Penso la guerra, così si presta molto a significazioni. Per esempio lei parla soprattutto della figura di Mandela, secondo me è un passaggio eccezionale, quella come il concetto dell'amnistia, riconoscere che la colpa è stata di tutti, anche da parte della Francia, dell'Inghilterra, riconoscere che comunque la prima guerra mondiale, anche loro avevano fatto la sua parte, cioè non si erano impegnati fino a fondo perché il conflitto così potesse fermarsi. Dal suo punto di vista, cioè cosa fa scattare negli individui e nei popoli. Questa è la comprensione del valore. Sì. Allora, l'amnistia può seguire un processo, e in quel caso c'è stato il processo, c'è stata la curata di contabilità e una condanna. L'amnistia è la cancellazione, l'amnesia di questa condanna, degli effetti di questa condanna, però rimane l'amnistia. L'amnistia concessa in Sudafrica avviene non dopo il processo di sentenza, ma dopo una discussione tra le parti, sotto l'autorità della Commissione, l'esibizione delle testimonianze e la ammissione delle responsabilità e la promessa del risarcimento delle vittime. Si arriva a un dispositivo, a un testo che chiamano sentenza, che è non il verdetto del giudice, ma è risultato di una combinazione tra le testimonianze prese dalle parti, i racconti delle vittime e l'ammissione di responsabilità da parte di loro. Sono molti passaggi, anche non semplice spiegare come funziona, però c'è un periodo di Andrea Lollini, del Lollino, forse sull'esperienza della Commissione. Detto questo, nessuna delle due procedure, non so se mi sono spiegato bene, esente dal rischio. Cioè, in Sudafrica le polemiche oggi, e negli anni passati, sono fortissime. Molti casi non sono arrivati in giudizio. Molti responsabili sono rifiutati di venire davanti alla Commissione. Botha, che è stato primo ministro in uno degli ultimi governi, si è rifiutato. E ha pagato soltanto una piccola penale per non essere comparso, no, perché era fattibile e non ha potuto sottoporre, nessuno gli è riuscito, se fosse stato l'esempio del sistema di giudizio penale, sarebbe stato portato dalla polizia. I soldi a molte famiglie non sono arrivati, la memoria non è poi così ricomposta per i conflitti anche tra della popolazione nera. Quindi, amnistia non significa che poi questo si produca veramente sempre pace e conciliazione. Così come l'amnistia italiana non ha prodotto una memoria pacificata. E quindi è evidente che ci sono poi le condizioni del dopo, cioè l'amnistia ha un impatto nel corso degli anni che può essere andare in diverse direzioni. Sicuramente è un istituto che ha una sua, come dire, un suo fondamento antico, cioè l'amnistia è legata alla storia della politica, alla politica classica. È impensabile che poi non, la società non si ponga comunque dei problemi di fare punto, di interrompere, di cancellare. Quindi è un termine che può nascondere diverse realtà sudafricana, come le realtà del secondo dopoguerra, hanno avuto lo stesso provvedimento, ha avuto effetti diversi e spesso lo stesso provvedimento ha significati diversi, secondo il contesto. Cioè, ogni fatto ha molte, fanno sempre molte facce. Il caso delle amnistie principali è proprio questo, perché opera i suoi effetti in contesti diversi, in contesti che sono molto diversi. No. Grazie, adesso la ringraziamo. Per...